le aziende quando ti danno il vestiario cercano sempre di risparmiare, no? È normale. Quindi tu sai già che hai un problema, più hai queste scarpe di gomma antinfortunistiche che non sono al top, fai e ti ricompareggi un paio di botti le scarpe. Le ho messe da parte, le ho regalate a un amico carrozziere e io sono andato da Rosa e mi ho comprato le Diadora, capito? Non posso trattare i civotti di gomma che ti fate nei piedi a gigolò. E io non ho problemi, grazie a Dio, però chi ha quel problema, e lo sa, deve usare scarpe buone, perché altrimenti ti puzzano i piedi. Non so, ma poi ti credo, io gli ho pagate, costavano 60 euro, gli ho pagate, mi pare, 50 zinco, queste che ho io, ma sono di una comodità enorme, sono proprio buone. Ma sto usando sempre scarpe così, mi sto usando le altre, le Diadora, cazzo, le avevo pagate lo stesso, le avevo pagate un po'. Però è meglio, queste qua sono della FTG, sono, non so se le mai sentite, blu, sono molto molto molto buone come calzature, 44, è una buona calzatura. Certo, bisogna avere, cose buone, altrimenti non fa. Anche il vestiario, cosa pensi ti do, che è un vestiario di massa, tutta roba cinese, tutta roba che costa 2 lire. Sì, vabbè, però magari il vestiario va già un po' più bene, ma che ti godi così, già, faccia il tempo che trova. Vabbè, meglio di niente, già va bene. Io adesso fumo la sigaretta qua, faccio già la finestra, poi me ne vado nel salone, mi guardo la TV e mica la maglieggio. Nappa, vediami, vai Burrio, queste sono fatte in Italia, sono, perché ho preso, e le ho prese dove compro io il materiale, in via Fermi le ho comprate, mi è trattato bene là. In via Fermi? Eia! E lì dove compro io? Dove è il negozio idraulica? Dove vende tutta la roba? Ah, ci devo andare lì perché via Napoli ha chiuso il carbone. Devo andare lì che mi servono 2 pezzi di rubinetto che li voglio recuperare per campagna. Che fasciato il rubinetto a Iena. Tre niente, giro il lungodo, l'hai fasciato. Siccome il rubinetto di quegli antichi della fontana, capito? Ma adesso invece glielo procuro, adesso vediamo. Vedi un po' come se lo trovi lì. Vedi un po'. Non vuole, secondo che rubinetto è, non vuole stretto forte, non ci vuole la sua stretta e basta. Ma cosa lascia in tubusi? Lasci che vuole provare la volta del rubinetto. Capito? E ha spanato la filettatura. Io gli ho passato il maschio, ma è 8 e non fa. Allora guarda se c'è qualche bocca, magari da mezzo a 3/4, capito? Gli ho ripiato, sono solo da riuscire. Infatti tutte le fotografie, tutte le cose, magari si trovi i raccordi, glielo ripiamo, magari ci fa cadere un raccordo di Trento. No, proprio il coso è sicuro lì, infatti la metto mezzo 3/4, mezzo, ma io lo faccio mezzo 3/4, o se trovo mezzo e mezzo, adesso vediamo, di solito ci sono questi raccordi carbonici, li avrà tutti quei raccordi, mi do anche il gommino della cassettiera, ma capito? Del gruppo della cassettiera, quando si consumava il gomino di gomma lo toglievo, lo mettevo nuovo ed era una granata, però ha chiuso, capito? Vabbè, e Luca è andato a farci la puntura. Gioco, comunque già è ben fornito di tutte le cose, io ho comprato tante cose, ho comprato già ne ha. Sì, avevo preso i flessibili dello scaldabagno io lì. No, già ne ha. Però, ti ripeto, io andavo sempre al carbone, lascio il carbone a chiuso e quindi vediamo un po'. Si così buoni trinti, ci vuole il teflon messo bene, dato la stretta giusta e basta, che tieni così pacchi tutto, cioè te lo spani tutto, cioè ne vai poco di casino. E poi molti sono in ottone, ci sono un raccordo in ferro, che se li fasci giustamente, perché non vogliono stretti a quanto ne vedi. No, ma poi c'è fatto l'ottone, ma qualsiasi rubinetto, una volta che metti il teflon o la scarpa e lo stringi normalmente, io ho sempre stretti a mano. Una giubbiazzata, un rubinetto. No, si stringono così con la pizza pappagallo e lo spari e lo rompi così. Vabbè. Sei abituato all'autolavaggio, attenisci le balle. Non dirà l'autolavaggio. Ma presa niente sempre. Oh, non conosco, boh. Ma dove? Dove c'è l'autolavaggio? Sì, non dirà. Di fronte alla Renault, quel campanone che c'è all'interno della Renault. Ah, oh, forse ho capito. Lì, attaccato al quel bar grande che c'è, come si chiama? E ha già compreso un di è. Oh, c'è la griffe, lì, quel campanone lì. Sì, autogriffe. Eia. Lì. Lì è. Se conosci a mio genero? Beh, quasi che lo conosca, perché io sono sempre in giro, conosco un sacco di gente. Vabbè, dove ti rossi è Puloedo, anzi, di Santa Maria di Pisa. Ah, vero? Certo che sì. C'è 10 anni con mia figlia. Non sei figlio di chi è? Di Angelo Farinelli. Ah, ha già compreso. Abita praticamente via, attraverso che c'è via del cavallo, di fronte al campo sportivo. Sì, a Rosogo, cara. A Rosogo, cara. Sì, io conosco pure a me cognato, non ti preoccupare. Su capo di gatto, non lo voglio dire. Ehi, è un padrone, chi vi? Conosciutissimo, non ti preoccupare. Piccate per una giuria da buona. Papà. Domanda avessi conosci a Tore Scheletro, a me cognato. Tuo cognato è Tore? Sì. E lo conosco anche io. Caparezzo bozza. E gli assicurati non te duci. No, Mario è un bravissimo ragazzo, non può dire niente. So che c'è un caratteraccio, non sta lì a tira e molla, mi dici. E dici di Santa Maria di Pisa, non da là. Lo so già come funziona. Ma già lo conosci, Hai visto mio cognato? Ti ho un racconto cosa ha combinato, non gli ti dici. No, c'è il massimo rispetto, mi dà di lei, ci sentiamo tutti i santi giorni, facciamo tantissime cose assieme, però gli ho sempre detto che lui c'ha un carattere molto molto brutto. Non sta di chi, non si perde in chiacchiere, capito? Due. A pigiamira, rilassati, calmati, stai buono. Sei buono! Vabbè, tutti di questa zona sono così. Eppure io gioco, già lo sai, gioco dei latti dolci. Ma no, io sono una persona buona, ma quando mi ci gira divento cattivo, un bel. Cioè, ti bacio subito, Ma no, del genere io non sono mai così, cioè sono più calmo. Che la boccia che è giunto qui da così mi sono stato a bocciare, roba di cazzata a bocca pigliato, ma l'assaggiati là, cioè Ed era convinto di così a me, gli ho detto vattene, non ti soccupi di nulla, vai dinne, insomma ha misurato le pugne, più fatto. Ma sono cose brutte, Antonio. Sono cose brutte. Si ragiona con la testa e con la bocca. Alle mani ci si arriva se uno è proprio costretto, altrimenti bisogna lasciar perdere. Canto una giovatta e da bifino, basta così, finiti i giochi. Facciate nomi, buono di in culo, se mi buono di in culo, allora mi sa di tenere lecce. Così, sono quella che andava a PC, puro, ma non sa, non ne ho più voglia, cioè, in passato oggi in corrido niente. Io non sono compagno della pauzia, cioè quando, perché io guarda, non andavo a rompere scatola a nessuno, cioè chi che mi ha cotto, cioè mi vorrei accudire sotto a robocciare. Attenanti, cazzo, li sono occupato di chi sa manica di cazzo da faccia, voi come l'ho fatto, è la volta veramente che mi sono incazzato forte, cioè sai, io non trica nessuno, cioè non sono di quelle persone che sono sempre i cuscino, non vado a cercare nessuno, no. A me mi piace, gli amici mi piace, cioè gli amici voglio rispetto dagli amici e li voglio bene, però se mi combini qualche cosa, logicamente, iniziate a darci pure a me. Io Anto do il cuore alle persone che ci tengo. Do il cuore. E lo sanno tutti. Però quando uno mi manca di rispetto, con me è chiuso, no, non c'è più niente da fare. È molto difficile che torno indietro. Perché io non manco rispetto a nessuno. Si può sbagliare, è umano sbagliare, però quando uno ti manca di rispetto, allora hai perso. Allora hai perso. La mia amicizia è finita. Basta così. Capito? Non torno indietro, non mi interessa, mi dispiace perché perdi l'amicizia di tanti anni, di tante cose belle fatte insieme, mi dispiace sempre, però a me chi mi manca il rispetto ha perso, perché io do rispetto e voglio rispetto, poi ti ripeto, è umano sbagliare, si può anche sbagliare, però non c'è bisogno di mancare di rispetto a nessuno, basta parlare moderatamente, tranquilli, sereni, si può anche chiedere scusa, si può trovare un rimedio, però quando tu manchi di rispetto a una persona che conosci tanti anni e che ti ha dato di tutto, che tu gli hai dato di tutto, allora vuol dire che è finita così. No, guarda, no, non mi piace a me, cioè, e poi se ti do quella parola, chissà, no. Difficilmente torno indietro, cioè a me le persone, sai quanto, ci sono delle persone per esempio, dico una capolata, che sono state, sono con me a scuola guida e cosa, qualcuno quando se ne va lo sai che dopo mi dispiace, perché ci ho passato tempo insieme, quindi è un po' dura, capito? Però con qualcuno mi sto sentendo, lo sento, ci salutiamo. A me non mi piace, cioè non sono la classica persona, per esempio come ci sono certi, faccio questo e tanti saluti, arrivederci. Io vi tengo, cioè sono una persona fatta così, ti conosco, che ci scherzo, che ho un rapporto, è tutto, cioè io... Non c'è nulla da fare, poi magari mi dispiace, se non ti vedo più poi magari mi dispiace. Eccolo Velmi, questa è una cosa che ho io dentro, sempre. Chiaro, dispiace perché hai legato, hai avuto dei buoni rapporti e quindi dispiace. Anche ai miei colleghi è dispiaciuto che sono andato via, però io so che è arrivato, non è che posso stare... Io ho fatto per 6 anni e mezzo il responsabile del mio lotto praticamente, della mia zona, e ti posso dire su 60 che eravamo di tutto il mio lotto, non c'è giorno o settimane che non mi chiamano in 2, 3, 4, capito, ci vuole un fisso che cazzo tutti i santissimi giorni mi chiama, che è quello più stretto che lavoravamo in coppia, tutti i santissimi giorni, mi chiama zio, figurati, mi chiama zio Claudio, perché non è di Sassari che è di Cagliari, figurati tu, quindi io ho sempre avuto buonissimo rapporto con tutti, poi ammetto che posso avere un carattere del cazzo, posso essere arrogante in certi casi, posso essere permaloso, posso, ognuno ha i suoi difetti, però io non manco rispetto a nessuno, e a me quando mi mancano rispetto mi si girano le palle, punto. Capito? Quindi non funziona così. Ripeto, sbagliare umano e accusare i pezzi è più facile che sta a fare burotto con la bocca. E beh, Lucariello, eccomi qua. Avevo fame. Non ci ho cenato, ma poco. Poco. Ho mangiato Arluzzo bollito io cos'è? Iceberg, salata, favette con la pancetta, cosa a pranzo, non ti dico cosa ci ho mangiato, una banana, no, devo scendere di nuovo perché stavo prendendo quota, assaggia qui, assaggia là, e sono contentissimo che quest'anno non ci sono feste, non v'è a burotto di nulla, che l'anno scorso non abbiamo fatto tutti i colori, quindi quest'anno va bene così, sono contentissimo, siamo in quattro, ho detto non portate vino, se volete suonate portatevelo e bevetevelo, a me non mi richiedi, io vi dico Eva e mangio pesce, carne non ne voglio, tutto qua, vai a tu. Buonasera. Buonasera Torino, se no già lo sapevo, se no sarà posti. Sa come? C'è sempre la solita storia. Avanti Tony. Capa, ciao Claudio, ciao Antonio, non so chi c'è altro, siete che ha saltato. E capa c'era Luca. Ciao Luca. Avanti qua. Telefono. Telefono un attimo. Oh, non esce in diretto, mio, tu vai da questo segnale basso che per chi picco di modulazione, poi è troppo alto di modulazione, non lo comprendo. Lui c'ha il microfono sempre a 1000. Tappa, Tonino, perché quanto è basso il segnale, Tonino? Ma ho notato anche qua un pochino, Oh, qua è come più vecchi. Non lo so. Siamo qua, siamo nel locale, non c'è bisogno di essere tutti così sparati. Cosa vuoi ti dica? Io già lo vedi, mi sto pulendo questa radio, oh yeah, un travaglio che ti vinta, c'è una cosa allucinante, cazzo. Lascio controllare quel coso, quel pace, deve essere il trasformatore sicuramente che fa quel ronzio, domani lo apro e lo pulisco, come ti domani mi faccio tutti questi manopoli e una per una devono uscire fiammanti. Ah, a proposito, io ho visto in un garage che di una persona che adesso non c'è più, dai, mi ha chiamato la moglie per ritirargli dei voti, un'antenna radioamatoriale tonda, che tipo di antenna è? Che antenna è? Un'antenna radioamatoriale tonda. Tonda? E buon Antonio, già, se non è vero, io non lo so. Antenne amatoriali tonde, io non è che ne conosco assai, la verità, non è che sono un grande esperto in antenne amatoriali, io ho avuto quelle che ho avuto e basta, non è che ne conosca altre. Allora, è una cosa, cazzo, ma interessante in buro questa cosa. Non so se già lo conosci tu, già l'ho conosciuto, quello che c'era con la punta bianca. Era che adesso se n'è andato, non c'è più. C'è lì dalla parte di via Mazzino abita. È un'antenna grande e di quelli a cerchietto. Capito? Via Mazzino, io ci sono arrivato le vecchio che non parlava più, io mica lo conosco. Capito? Non so chi è. E che antenna sia, questa non lo so. Azza, ma pesanti però! E c'è anche altra roba, c'è. Oh, non lo so. Caffa, chi su con la P incomincia il cognome? Con la P? Sì. Buonto, non lo so, se non è dell'era che io ho iniziato, non lo so, se poi è di quelli anziani, magari io non l'ho conosciuto. Sì, ti ho mandato il cognome, ti ho mandato. WhatsApp. L'hai vista la radio che sto usando? Quella che ho comprato nuova? No, cos'hai comparato? Questo è un Midland base 78574, adesso ti mando la foto. E il pace l'avevi visto? Non mi ricordo. No. Io dove ho dato questo microfono? Ma no, di quella roba là non è so. Adesso te lo mando, Bombolo Antonio, eccolo qua, questa è quella che sto parlando adesso, tutte e due te le ho mandate. Bello, e chi è delle due che stai parlando adesso? Il Midland, quella celestina, non quella marrone. È buono, quella là è il patch, cos'è? Sì, quella marrone è il patch base, e questo è un Midland 78574. Sì, ho capito, sì, l'ho anche conosciuto, alla grande, l'ho anche conosciuto. Dovrebbe essere una direttiva forse quella lì, quella che c'è in garage. Sì, chissà manna, a cerchio, ma chissà, lo sarà chissà no che tira fulmine. Antonello Pomponio devi dire, che è molto amico della figlia. È molto amico della figlia. E viene le roba anche sul garage. Sono andati e si stanno buttando tutto. Ma vero? Due citti. Non mi pare a strano che mi ha detto la moglie. Mi pare a strano che. Cioè, è solo questa roba. Qui è un bel capo puro, taglio di tutto. Scusate, sono tornato. C'è un bel di capo pure, ho visto, di chi su grosso. Sì, giosso. Conoscevo anche la radio, conoscevo tutto. Avanti, Tony. Capo, non so come stavate parlando, perché sono preso qua 50, mi ha trattenuto un po'. Ho detto, capo, adesso che sono entrato in frequenza. Vabbè, dai, è ripetita. Aumenta appena la potenza, Tony, che c'è un segnale da 7 a 9 più 20. Vabbè, e cosa metto qua? La potenza di quella radio, sicuramente ce l'hai al minimo. Esce a vedere. Così, va bene. Ma cazzo ce l'ha un po' conto perché la tiene a zero. No, c'è il power, quello della potenza era a metà, un quarto là, diciamo. No, lasciala stare al massimo, perché sennò c'hai questi picchi di modulazione allucinanti. Così si muove, ma si muove poco. Cazzo andavi da Santiago 7 a 9 più 20. E poi ti fa la radio troppo cupa. Così invece va meglio. Ok, capo, lo lascio così allora. E toccando, spolverando, senz'altro qua. A me piace anche spolverare, ho pulito. Ogni volta si fa il suo straccetto. Ah beh, come tutti, mi sciocco con il viso delle mani io. Dove vedo polverina, soprattutto negli altoparlanti, no? Questi vintage hanno gli altoparlanti davanti, quindi negli spazi vedi della polverina e col pennellino glielo togli. E cappa. E quindi faccio un viaggetto. Niente, stavo chiamando mio figlio, non mi risponde mai. risposto mai, mi chiama, ma mi hai chiamato, ma l'hai mai chiamato l'autotrofi? L'autotrofi per lì nel disco. Tu ti hai fatto a medaglia lì che stacchio. Cazzo, non ho più sentito, l'altra volta l'ho sentito nel 23, sono entrato a salutarlo. Addirittura Antonio Adanto non ti va di male. Ehi, cazzo, qui, là, bim, bum, bam, aiutateci a fare due luci in fresca. Là, io sono con la sua poco, non c'è quasi più niente, quasi tutto venduto. Sì, ma perché? Lo so, l'ultimo, lo so anche chi l'ha fatto, perché quella che aveva gliel'ho venduta io, capito? L'ha data a me, gliel'ho venduta io subito, in 48 ore gliel'ho venduta. Però, dico, cazzo, perché? Non oggi non pesce. Se ne devi una, ma no? Invece. Boh, comunque stai aiutando Tognato a svoltare qua, svoltare là, che hai capito? Stava da letto, armadio, eccetera, ma è tutto molto impegnato. Ma detto, fammi sapere quando mai hai fatto la visita, io l'ho chiamato per farglielo sapere. Poi se vuole venire io posso pagare il viaggio. L'albergo per un paio di giorni, perché io sto un paio di giorni su a Ravenna, capito? Allora manco ho fatto un altro qua, oh, farò tante quelle camminate, oh yeah. Non so, però dico, cazzo, ho fatto di tutto per rientrare, per farci una bella stazioncina, poi, cazzo, in pochissimo tempo ci ha venduto tutto, fuori avari, lo dico, vabbè, lui ha venduto, io ho comprato, adesso mi sto alla caccia di un'altra radio, se la trovo, se non la trovo mi prendo il Galaxy Saturnet, però ho dato priorità al Simba, molto molto bella quella radio. Solo che la trovi all'estero, cioè tratto veramente il viaggio, che mi hai domandato 60 euro di spedizione, più bisogna 700 euro di sdoganamento, la radio costa 120 euro, fatti il conto, cazzo buccuta, gli dico no, non risprendo quei soldi, se la trovo qua in Italia va bene. Io dico questo come baracchino della 27, un Galaxy Saturnet. È il massimo, diciamo c'è tutto, non gli manca niente. Di questo io posso dire a voce alta. Questo lo sto usando io, qualcosa le manca, sia poco bello, più piccolo il Saturnet, ma è spettacolare. Questo l'ho preso stamattina, me l'ho ritirato stamattina. Molto molto bello. No, ne ho, ne sto prendendo di vintage, molto bello, anzi ne ho preso due, adesso ti mando la foto, dove sei, Kawasaki, eccolo qua, questi sono quelli che sto usando adesso, Io ho visto quello che c'è su WhatsApp, io c'ero uguale, ma non io quello lì per caso, che l'avevo verniciato. Il tuo che l'avevi verniciato? Io l'ho preso da un collezionista. Sì, quello che c'è su WhatsApp, quello lì. E poi c'ho il patch Mix 2003. Bellissima radio anche quella, però mi piace più questa. Quello è Midal SSM 40 canali, era tutto per calendario, tutto levigato, è verniciato, con la qualche azzurro tipo aviazione colore, più o meno. No, questo è il suo colore originale. Ce l'hai avuto anche tu questo? Non so. Questo è il suo colore originale. Kappa, cazzo non mi dai pilletti, non può essere, 2-1 contro Genoa, cazzo Genoa è una bella squadra, maledetta, ci ha fatto soffrire a noi, va bene che va bene, no, poi c'ho il Poli, base lo stesso, c'ho l'Inuiti 294, c'ho l'Inter che 3104, il Pace, il DAC, vabbè, c'è un baracchino, lo standard. Sono alla caccia di questo Simba, cazzo, del Perception, che c'è un microfono da tavolo originale, ma in Italia non riesco a trovarlo, eh. Avanti, Anto. Ti piace, Anto, quella radio? Anto. Sì, è molto bella, ecco. E non ammara. Ecco. A posto. benissimo, va bene. Ognuno c'ha il suo microfono a tavolo, questo c'ha l'MB più 5, il Pace c'ha l'MB più 5, l'Inter che c'ha l'MB più 5, il Dati c'ha l'MB più 5, il Boni c'ha l'Egain, microfono dell'Egain sempre da tavolo. Ma non è, gli ha ordinato i microfoni Fugiaro, gli ha detto ordina un più 5 o un più 4. E poi ordina più 5 o più 4, ti ho detto che servono a me, cosa ti rimangono in vetrina, tu ordina lì, appena arriva chiamami che me li compro io. Ciao papà, sto notando una cosa, siccome sono con l'apparato low brake, 8000, neanche fa la posta, guardando il mondo, il ricevitore che c'ho io è a low brake, che è lo stesso. Come si sentito? Funziona bene. Sentite? No, mi siete solo modulati, diventò. Mi sentite? Mi sentite? Che sono passato a questa radio adesso. Sei saturo. Vabbè, lo so che sono saturo. Stacca il lineare. Guarda che è un cane che va freddo. Io sono liscio liscio, qui batti danno il baracchino, boh. E va bene così. E anch'io sono liscio. E va bene. Ehi, ehi, no, vanno bene quelle cose lì, Tony, sono delle belle attrezzature, io l'ho avuta linea 3 che funziona bene. Papà, cosa volevo dirti? Ma io quello che ho, guarda, secondo me l'hai visto quello che ho preso da Gio Maria, che è la frequenza del Baofeng, sì? Sì, non ce l'hai più perché? Capa, ce l'ho attaccato. Ho avuto il ricevitore, il Baofeng con il portatile e poi ho fatto Marocchino con lo, che ti stavo dicendo, il break, quello lì 8000, il Galaxy. E boh, mi va bene così, due portatili, mi va anche troppo bene e funziona. Boh. Non ce l'ho di più. No, va bene, ma voglio, va bene. Io mi sto appassionando a questi baracchini qua, infatti sono sempre seduto a questa parte, l'altra scrivania ce l'ho alle spalle con tutti gli HF e sto usando poco. Ecco, il giorno è venuto, perché non mi senti bene, Tony? Sì. Cappa, l'ovazione buona, ultima, non è però la timbrica famosa che sentivo prima. Adesso sono con 4 watt, va bene? Già va bene tu. Niente, se non me lo dici 9,20. Già va bene, già va bene. C'è bisogno di attaccare. E beh, Tony, la timbrica non è la timbrica di che vuoi. Però mi hanno detto che va bene e quindi uso questa. Posso usare anche l'Inovit, posso usare anche l'Intec, posso usare il DAC, il Pony. Ehi, ogni tanto ne uso uno, intanto i microfoni sono tutti uguali. E così non si miglia la gana di rimanere a riposo, rimango sempre in movimento, già va bene. Niente, la signora invece di Gianni mi ha detto che ha la voce uguale identica, come il barottino anche di persona. Ah, sì, sì, e beh, quello sì, è stato sempre così. Sei stato sempre così. No, qua c'è una base, Tony, dove sono tutti alimentati. Tutti sotto antenna, io ho il commutatore. Commuto e cambio radio quando voglio, non c'è un problema. Non agilità, ma tra me e un gatto. Ho fatto due basi separate, due scrivanie separate. Da una parte baracchini e dall'altra parte gli HF. Tutto sotto traccia, non si vede nulla, tutto ordinato e pulito. Avanti, altro che vado a bere. Pacca, vai, vai, qua, non c'è problema. Non ho mai provato. Con 4 watt, come arrivo lì a San Camillo? No, abbastanza bene, 9,20, sì, red 5, ultima. Veramente così forte? Ehi, io non so quanti watt è questo qua, se da 8, 10 watt, buco. Comunque, vedo che arrivo bene a Sassari, quindi e lì ha rotto e rimane passato sulla via luce. Scappa, no, io sto uscendo con i batti della radio, sto uscendo. Non me l'aspettavo così tanto segnale. verità. Già va bene lo stesso. Ascolta, io ti sento. Da me risulti, guarda se mi porto tutto appresso. Stavo pensando, quando avrò un po' di riposo per queste ferie di Natale, mi sa che mi faccio una piccola modifica al mobile che mi sono fatto. Devo sistemare tutto. Ora lo lascio così, ma devo tutto modificare, come so, perché come adesso non mi piace. Papà, no, io qua ho modificato tutto l'altro giorno. Mi sono messo anche il coso, mi sono messo la presa a cin di sigari per attaccare il portatile, ho fatto un sacco di cose, ho fatto belle, e non andava. No, i mobili me le faccio io, capito, come piace a me, come le vorrei e me le faccio, me le disegno. C'ho lo spazio di questa parete, ok, mi faccio questo mobile, prendo le misure. Poi compro tutto il legname da bricone e poi qua me lo lavoro. Avanti classe, hai entrato? No, ancora no. Capito, tu? Ho tutta la trattatura e me le faccio. Ma questo era già fatto, l'ho un pochettino modificato, gli ho fatto il buco, gli ho messo l'accendisigari, gli ho fatto un altro buco, gli ho fatto passare il PL da sopra, dalla discesa, là. Ho fatto passare dentro il mobile, ho fatto un mobile dedicato, gli ho messo il coso per i microfoni. Cavolo, sai cosa mi serve, Tony? Mi servirebbe, già te lo faccio vedere, non so se qualcuno ce l'ha. Siccome mi si è spaccato quella rotellina che c'è dietro, il microfono, però un po' particolare. Quella rotellina che c'è dietro il microfono per appendere i microfoni, capito? Mi si è rotta. Non è che qualcuno ce l'hanno. Ma quelli è attaccato già. Ma con la vite ce l'avevi tu o che cosa? Con la vite ce l'ho. Bisogna procurarlo. Non so se c'è qualche microfono. Se ce l'ho, è attaccato proprio al coperchio. Lo taglio diretto, gli faccio un foro con il clamp, no? Punta piccolissima. Per la vite ce l'ho. Cappa, se vuoi ti mando la fotografia come è fatto, perché non è quelli ti fa svitare qua, c'ha il coso e c'è la vitina dentro, perché questo che sto usando adesso c'è la vitina che si smonta, quello lì non è così, questo qua si svita direttamente, c'è il maschio, quello là invece c'è proprio la vitina dentro. È fatto così, già lo conosci. Ma scusa, perché è bombiata che non fa prima, e si vede fisso. Ma chi su chi è paccato? Si toglie, tutto si può fare a tua. Ho capito. Si toglie, si può fare tutto. Sì. Mi serve quell'affare che si agganci a qualcosa di portamicrofoni, a me è più bello. L'altro ce l'ho. L'altro, che non mattessi il microfono uguale, mi. L'altro ce l'ho ed è perfetto. Questo, sai com'è? Quello là è rotto, perché sono stato io, un adiero, un po' magari di sbronzo. L'ho toccato, l'ho spaccato quando abitavo nell'altra casa, quel pomellino di dietro. Già rimediamo, dai. Claudio, sei entrato? Io sono qua. Poco fa ti ho sentito dicendo no, soltanto acqua e buh. Allora fai come me. Sì, Tony, sì. Ne ho approfittato, ma non, sai, tu mi conosci, qualche cosettina così, un goccettino di vino, un sumantino, questi giorni, preparazione natalizia, e ho preso un paio di chili, quindi sto buttando giù immediatamente, perché sennò rischio veramente che mi faccia male la schiena, capito? Guarda, io la visita che ho fatto oggi, ho promesso al dottor Tresoldi che da oggi faccio una dieta, ho messo il calendario da oggi e a mezzogiorno ho mangiato pochissimo, quindi niente, lievito pane, pasta e patate. La pasta posso mangiare 80 grammi massimo a fine settimana e buh, roba integrale e non molta roba di insalata perché contiene molta fibra. Pesce, pollo o tacchino, quello sì. Carne rossa, no. Dopo che c'ho io, va bene così. E vedrai come scendo qua, perché metto che anche il peso contribuisce, quindi devo fare e boh. Ehi, sono Renato io. Ero 92. Sono sceso a 79. Adesso sono 81. Però sto bene lo stesso, ma li voglio buttare giù di nuovo. Sono già 3 giorni io di nuovo. Fettine di pollo proprio giratevi senza niente, insalata. Ho mangiato lo stesso una bella insalatona, stanotte il merluzzo con le favettine in verde, è insalata lo stesso, e domani, boh, non lo so, deciderò domani cosa fare. Ho preso un pezzo di segno, un bel pezzo di grano, perché il formaggio devi mangiarlo, però ho grano, un dolce sardo, queste cose così. Roba grassa nuda. Oh, Tony, te l'ho già detto, il peso influisce tantissimo, perché a me me l'ha detto l'ortopedico, ma detto lì la prima cosa che deve fare è iniziare a scendere il peso, perché per la sua altezza 92 kg sono tanti, quindi, e mi sono messo l'impegno e ce l'ho fatta. Infatti cazzo, prima, appena mi vedevo, prima impatto, mi dico, tutto bene, grazie. Sì, perché grazie a Dio sì. Oh, vabbè, ti vedo molto, oh, non c'è problema, ti spaventare, sono a dieta, a chilo troppo grasso. Capito? La gente se ne accorge subito. Vai, Anto. Sì, pure io un po' gareddo gioco. Sono troppo pure io, devo cercare di farà, solo che non ve le riesco, a me ribatte, un manzano mi piace di troppo, la minestra, non riesco, cavolo. Tanto impegno ci devi mettere, la mattina se ti prendi un caffè e fai colazione e ti mangi una pasta non succede niente. Però ti devi limitare molto con i carboidrati, perché se mangi i carboidrati a pranzo non li devi mangiare a cena, non li puoi mangiare pranzo e cena, devi cercare di bilanciare, se li mangi a pranzo i carboidrati a cena non li devi mangiare, capito? Quindi ti fa anche bene per il tuo lavoro, devi cercare di bilanciare le cose, e se no, oh iaia, yeah, yeah, mamma mia, ma c'è altre volte porta, lascio i teli di dolci mia figlia dal bar, oh, la portati una, due volte, la terza, e là, non le portare più, papà, non le portare più, non le portare più, perché se ci sono i dolci li mangiamo, lo sai, io e mamma siamo malati per i dolci, non le portare più. Stasera ha portato proprio 2 pasta per colazione domani mattina, ma se no dunia lì, capito? E bisogna stare attenti a queste cose. Vai Tony. Beh, i carboidrati è cosa fondamentale, sarebbe patate, pasta e pane, le cose più, il pane fa ingrassare molto di più, tra l'altro. Io oggi, stasera, ho cenato pomodoro e 2 fette biscottate integrali. Che poi, meno male che non è più, e non occupare giubi, perché anche le fette biscottate lasciamo perdere. Io mangio senza pane, senza niente, basta. Un pezzettino di grana padano ho mangiato, ma anche il formaggio fa ingrassare, lo sappiamo. Però qualcosa devo mangiare, io prendo molte pastiglie, cavolo. Niente, la mattina latte, parzialmente sgranato, e quello va bene. La cena leggerissimo, io ciò che ho mangiato stasera ho mangiato anche a luna, leggero, proprio leggero, leggero. Giustamente dice Claudio, se mangi carboidrati a mezzogiorno mangiare da sera. E quello che se a cena, cioè a letto bisogna andarsi molto leggeri, perché mangiare e coricarsi è molto micidiale, perché assimili, quindi bisogna andare molto leggeri. Questo è fondamentale, Antonio. Stavo rispondendo all'altro microfono, scusa. Sì, è vero. È vero così, è vero come stai dicendo tu. Purtroppo io la mattina mi bevo un bel latte macchiato, ma manciato però, bollente. A volte secondo i giorni anche 2 pasta. e la mattina qualche fetta di scottata ce la metto in mezzo, perché io prendo tre pastiglie al mattina prima di fare colazione, capito? Una protezione del sole e le altre due che seguono per quello che ho io, quindi automaticamente devo mangiare, non dico abbuffarmi, no, una fine settimana un po' di pasta, 80 grammi, mi va anche bene, basta. Se mangio la pizza, non mangio la pasta a fine settimana, perché la pizza è uguale, non cambia nulla. Avanti, Cla. Infatti, sto dicendo, non è che puoi mangiare pasta a pranzo e pasta a cena, usciti, vai la bubù a vero. O la mangi a pranzo o la mangi a cena, decidi tu, però non è che poi a pranzo ti mangi un panino o due panini, capito? Perché io conosco persone, no, non mangio niente, io non mangio un piatto di pasta con un panino, adesso io non è nuda, adesso il piatto di pasta con il panino, non devi mangiare pane, pane micidiale, capito? Io l'amante del pane, insaccati, di tutto, salsiccia, formaggio, di tutto, mortarella, tutto andato, e poi basta, buon finito, ma lo già, allora vai a non muoviti più, è un pericolo totale. Là, il fatto che prima era prima, non ce ne fregavamo, non è così anch'io, cosa tanto mangiavo, non me ne fregava niente, avevo tutto, quindi non mancava niente. E poi niente, quando arrivi pure piano piano con l'età e cominci a correre, caipita, e chi ti ammazza e comincia, ghiaccia anche qua, ghiaccia anche là, dicono qua che devi dimagrire, quello quell'altro, la cominci già. E no, lo va vero, e vedi poi i risultati positivi. Allora ci stai molto più attento, dolce, a una parte, anche già lo sai. Io sono già oltre 5 anni che bevo caffè senza zucchero, sono abituato, eppure lo sento buono al caffè, un goccio di latte può smorzare un po', però la verità, il latte è già dolce, diciamo se stesso, e mi trovo molto bene. Basta eliminare queste cose qui. Io da quando ho volato la sigaretta, là, da Calendai, ha ingrassato un po'. Mamma mia, quella è la morte. Se io dovessi lasciare la sigaretta, ingrasserei lo stesso, perché sto sempre mangiando. Capito? Però, setti limiti e fai un'alimentazione sana, allora le cose vanno bene. Se poi l'alimentazione è sporca, non c'è da fare. Io nel periodo che lavoravo tutte le sante mattine, partiva uno, andava a fare i panini e lo faceva anche a me, e quindi tutte le sante mattine sto panino, metà mattinata alle 10, capito, la lattina della Coca-Cola, e sono tutte cose che poi ho mollato. La mattina prendo un caffè macchiato, quando io voglio me la mangio una pasta, per carità, non è che muore nessuno, se no prendo un caffè macchiato e basta. Poi se esco di nuovo un altro caffè senza essere macchiato, un altro ancora, capito? No, non bevo più, finito, chiusi i discorsi. Vai Antonio, un altro passaggio, poi io vi lascio, vado un po' nel salone, a sdraiarmi nel divano. Che oggi abbiamo dato in radio, abbiamo dato e scappa. No, io, cioè, vabbè, il discorso è che prima ti muovevi, magari ammortizzavo un pochino, ma non avrebbe più fatto queste cose, sennò guai. Pure io qualche volta me lo mangio il panino per la mattina, qualche volta, ma non sempre. Però la colazione, a me mi piace farla ricca, soprattutto stamane, stamattina che, cioè, mi ho scaricato 70 bombole a mattino presto me, a Rese di Manzano, mica noccioline, cioè, a primo mattino, poi ne sono salito con la bici, ne sono salito anche in deposito, e quindi energie nel consumo, cavolo. Beh, certo che ne consumi, e per quello te lo sto dicendo, cerca di avere un po' più di cura, capito, del tuo corpo. Va bene, dai, io vi abbraccio, ciao Antonio, ciao Tonino, e ciao anche a tutti quelli che sono in ascolto. Un abbraccio a tutti, buonanotte e ci aggiorniamo domani. Ciao. Ciao Cla, salutoni, ci sentiamo, stavi bene. Buona perichella, a risentirci, stavi bene, davanti a tu. Ma ciao Cla, ce la recitiamo alle prossime. Buona perichella e buon tutto. Grazie anche a voi, ciao ciao. Ciao Cla, ciao. Capito Antonio, quindi bisogna guardare le calorie, quanto ne assorbi, quanto ne mangi al giorno, e devi dartelo limitato, giustamente. Sì, ma sono sempre in movimento, sempre prende il gioco. Il problema è che io mangio, però assimilare non è che assimilo molto. L'unica cosa che adesso questi giorni ho lasciato la birra, perché oltre che mi stava tontendo è un pochettino, perché cazzo ne bevevo un bel una bottiglia ogni giorno, e quindi l'ho lasciata anche perché devo avere la mente libera, perché devo cercare di fare questi quiz, devo avere la mente libera perché devo prendere questa patente, e poi oggi ne ho fatto un bel po' di quiz, cavolo, l'ultimo che ho fatto, cioè gli ultimi che ho fatto erano 4 e poi l'ultimo ancora 3, mi andava 3 errori solo, sempre promosso, con 40 domande, quindi bisogna mettersi sotto e farne un bel. Patente in macchina? Sì, sì. Ah, io l'ho data a voce, la patente. E ti dirò che 7 domande mi ha fatto e basta in tutto. Adesso ho passato la prima. Di guida erano 24, me la sto a fare 3. Anzi, portavo già la macchina. E poi, niente, la patente ho dato 5.000 lire al conto e poi 30.000 lire. 35.000 lire costato. Nel 74. Sì, è un Audi. No, adesso funziona così. Adesso devi fare 40 domande sono. Prima era di meno, erano. Ah, tu c'hai quel tipo di patente lì di quegli anni. Hai anche la cosa, la A, che per guidare tutte le moto. Quella nostra no, fino a 125 possiamo guidare, che praticamente è abbinata, la A1 è abbinata sulla patente nostra, che per guidare fino a 125. Sì, sì, c'è la A e la B, infatti. 46 anni fa, praticamente. Infatti ho qualcosa che 750. E poi se la moto 2000 cilindrate la posso portare, non c'è problema, capito? Quindi, no, ma la moto l'ho avuto che cos'è, che ho un po' bassa, troppo pericolosa. Non bacio la mia età, la mia repressione, sono tranquillo, quanto prima e poi. Guarda, ogni sera mi sono a far rendi con questa macchina così. Ma se fanno nel senso, perché mi viene questo cavolo di dolore alla gamba, per lei nel disco, una futa, ecco perché mi devo operare, devo partire a gennaio. E mi faccio questo nel disco. Non è buono più, ogni sera ci metto quella mia buona volontà, però starsi 10 minuti, poi riposarti un altro quarto d'ora, poi altri 10 minuti. Alla fine, insomma, arriva la sera che sei stanco. Non è che non ti fa nulla. Ti capisco, sono dolori micidiali sono, mamma mia, cura capirà, mamma mia, sono cose un po' brutte. E infatti oggi sono andato a fare la visita, ho cercato, mi hanno indicato mia nipote, questo dottore che è bravissimo, viene da Brianza, ecco, vicino a Milano. E quindi c'è lo studio lì e Alghero. Tra l'altro opera lui vicino a Ravenna, lo studio all'avanguardia proprio, General Hospital c'è scritto. Beh, comunque, fatto sta, ho fatto la visita, 150 euro soltanto per la visita, però mi ha fatto anche la lettera per il mio dottore che mi fa l'impegnativa e mi chiamerà la segretaria questi giorni, ma è tosto. si parla per l'11 gennaio oppure il 13 o 15, non mi ricordo. Quindi niente, ho deciso, mi opero, basta, ne ho le balle piene, non posso continuare, sono già 6 anni così, capito? È inutile nervione, mi desideri che dai d'asco, poi punti a capo, no. Sono io quello che sto passando a tu, sto lavorando male, ma più di male così non si può. Ma te l'ho detto, se è necessario vai e fallo, perché cioè non puoi stare così, ma stai scherzando. Che cos'hai? Fai benissimo a farlo. È capace. Ho deciso ormai, me lo faccio. Qualche persona dice, interrogi quant'era, ma una visita. Scusa, io per la salute non guardo niente. Tanto, non bevo, non mangio, cioè non fumo. Se su di spendevo le sigarette. Io fumavo quasi 2 pacchetti al giorno, noi. Sono oltre quasi 6 anni che non fumo più, non me ne affronti nulla, sto così bene, vale salute. E niente, per le cose non bisogna guardare, per la salute è troppo, non bisogna guardare queste cose qua. Se uno non le ha è un conto, ma se uno non le ha non deve fare il tirchio. Cappa. No, io ho smesso di fumare molti anni prima. Sarò 10-15 anni che non fumo più. Non me ne frega niente. Sto bene, sto. Oggi ho fumato di tutto. Poi ho detto che non ne valeva più la pena. Che puoi far male ai polmoni, dai. Io ho fumato troppi anni. Ma un bemmi, buon baglia. Nagia di male bene, mi fumato. Ci sono riuscito dopo tanto e ci sono troppo contento e soddisfatto. Posso dire, ce l'ho fatta. Andrà bene, dai qualche altro passaggio tu, che poi anch'io mi giro per parco, guardo la TV e poi la nanna. E tu mattina come al solito a 4 mesi o 5 sono scendendo. È normale. È normale. Ma cos'è dopo che sei stato male non hai voluto più sapere di fumare? O prima? Allora, quando ho iniziato a sentirmi male, mi sono talmente spaventato che sono stato una settimana senza fumare. Poi mi sentivo ancora più strano e anche mio figlio come in ospedale. È stato lì che mi hanno ricoverato l'urgenza. Sono stato 10 giorni, sono sceso anche di peso e la sigaretta non l'ho più toccata, tanto è vero che mio figlio ha detto tu, quando ci esci da qua subito le sigarette. Hai messo, io non fumerò mai più, e così ho fatto a tu. Io sono dal 20, il 20 aprile del 2015 che non fumo più. Hai fatto bene, hai fatto bene. Io non mi ricordo manco più la data, perché non ne voglio manco più sapere. Non ne voglio manco più sapere delle sigarette. Non mi interessa, la compro per altri già dico un pareggio, ma per me no, quanto riguarda me io no, non ne voglio più sapere di sigarette, di niente. No, ma ce la faccio ad ammalarmi. No. Lasciamo perdere. Che poi quando uno fuma non ti accorgi niente, addosso si impregna tutta la roba di sigarette. Io quando rientravo da lavoro aprivo la casa e sono infiato di sigaretta, capito? Adesso quando entro sento un bel odore di profumo, è tutta un'altra cosa. Fa male, noi non ci accorgiamo. Tu pensa che io da quando morto la sigaretta, se una persona si avvicina a me e si mette a parlare, basta una o due parole e tu hai fumato. Lo sento subito e mi fa schifo, mi allontano, retrocedo, dico no, mi dà fastidio l'odore di sigaretta. Quindi, meno male che il mio collega che siede con me in macchina non fuma, adesso sono tranquillo. Questa macchina quando l'ho presa io ce l'ho già 4 anni e chi ce l'aveva non fumava e io non fumavo neanche, quindi sono tranquillo. E la sigaretta è brutta, tanto fa male. Ha due cose, uno è i polmoni e l'altro la tasca. E Sì, dopo è diventata tutto, per carità di Dio. Ui. Cazzo, facciamo le scale, già ho cominciato a fare le scale col piattone, ma non ti innande, ma è buca, come questa bucaria. Ma vai! Chissà cosa ci mette uno stato in mezzo. Per rimanere così attaccato alla sigaretta, il tabacismo, la mazza di livello al governo. Fa male, uccide proprio nello stesso. Guaccio, cara. Caradito. Caradito, Ghito. Come Ghito caradito? C'è scritto che uccide nel pacchetto di sigarette. Ah, sì, non avevo capito un'altra cosa. Cioè, però è di continuare a spacciarle questa mondetta. Ne abbia bugato tutto, cioè da voi se sei nervoso di codru gabbaro muro. Ah, panculo. Lo sai che i soldi che incassa il governo il tabacco. È ovvio che arrestano quelli contrabbandieri e sigarette, perché su cui incassa di meno, la mazza di rivaria. Ma comunque tutta la balla per il vaccino finiranno, non è vero niente, è tutta la balla. Ognuno di la suglia. Sì. Magari ci sarà, ma bisogna cooperativi che devono incasciare ancora. Il Covid è cassa di varia. No, no, non è che ne sappiamo molto bene certe cose. Ma sto sentendo un programma al TV che dice, ma a me fa meraviglia, dice questo. Arrivano i vaccini e non c'è sto siringa. E sino ad aprile dell'altro anno niente siringhe. È il colmo che arrivano i vaccini e non le siringhe. Un altro dice no, i vaccini non possono arrivare perché prima si era parlato di 18 mesi per fare le vaccine, se in poco tempo c'era già il vaccino. Hanno fatto vedere poi quello lì, non so il presidente di che nazione era, farsi il primo vaccino. E nel quadro può bene la siringa c'era il tappo. Per carità, e chissà cosa vedo da reddito tanta questa cosa, per carità, interessi ci sono secondo me. Loro mangiano tutte le parti, ma tu, per carità, e via, e vado avanti tanto, inutile, comandano loro fin quando sono governo, e prego che li invadiano. Ok, tu, io spiego il totos, spero di entrare un po' più spesso, così due chiacchiere me le faccio. Ma che volte quando mi corca c'è nel baracchino, 10:30, non c'è nessuno, spazio, non c'è nessuno, spiego tutto e buonanotte. È rare volte che c'è qualche persona in frequenza. Ok, tu, dai, mi apri cordiale, buonanotte, buon 144, ci sentiamo. Ciao, stai bene. Ah, ciao Tony, dai, ce la risentiamo. Alle prossime, ciao ciao. Ciao ciao.